qualcuno qua, CQ10, CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, qualcuno qua? Attenzione, tutti dormiti siete? Attenzione 10, attenzione 10, attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ 10, c'è qualcuno qua? CQ 11, c'è qualcuno qua? Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno qua? Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Chi è avanti? Ehi, buongiorno, in realtà, stavo provando così. Oh, ciao Gianmarì, buongiorno, buona domenica. Altrettanto, stavo spazzolando, ho dovuto fischiare a vedere un po' se c'era qualcuno. Che altro c'è? Nessuno, io e tu, e boh. Ero in macchina poco fa, stavo chiamando e non mi ha risposto anima viva. Oggi sono tutti in giro, sono tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Non proprio tutti, buongiorno. Millomi, buongiorno, buona domenica. È bella, per cui si approfittano. Bisogna approfittare di queste giornate così. Fanno bene in realtà. Riprende. E infatti, chi se lo può permettere già va. Ma io sono riuscito a portarmi nella macchina qua, che ce l'avevo lontano, sono andato piano piano col baccolo e sono riuscito a portarmela qua, perché qua non c'è mai parcheggio, ce l'avevo molto lontano e mi serve la macchina. Serve sì, purtroppo no, però le macchine ci sono, per cui parcheggio è difficile trovarli. Specialmente abbiamo abitato in quella zona lì, è sempre pieno. Perché se no io grazie a Dio ce l'ho, la metto dietro qua e non me lo tocca nessuno, al fresco, la mattina c'è il sole, la sera c'è altro il fresco, va. Ok, avanti, chi era l'altro amico? Ciao Gio Maria, Marco, ben sentito dopo tanto. Anch'io qua l'ho lasciato acceso, ho fatto una spazzolata, poi adesso ho trovato voi. Io stavo preparando il tè, la colazione per me e per mamma, e poi devo stendermi la roba che ho lavato in lavatrice. E quindi buon inizio di domenica a tutti. Riprendi Gio Maria. Ok, ben sentito, ma dopo tanto ce ne sentiamo, vuol dire che ancora respiriamo e per cui piano piano si fa avanti, dai. Zoppi zoppi via, diciamo, zoppi zoppi camminando piano piano. Ok, ma fa piacere sempre, dai, ogni tanto a sentirci. A proposito, è Liu come sta? Gio Maria, Liu ha avuto, è stata ricoverata 20 giorni perché ha avuto un'ulcera duodenale e poi c'era un'infezione batterica di quelle opportunistiche, che come ha avuto quest'ulcera ha un po' preso piede, capito? Quindi ha dovuto fare la terapia antibiotica, però adesso sta meglio, grazie a Dio. Si deve un po' rinforzare perché lì aveva un po' le gambe già, aveva l'artrosi delle anche, no, bilaterale, e in più rimanendo a letto 20 giorni si è un po' indebolita, però già sta migliorando un po', adesso è che non può camminare bene come prima, ma sta facendo esercizio piano piano. Riprendi pure. Ok, Marcello, dove la certezza uno, invece sta più bene, sta sempre più male, perché il cioè, anche io le gambe se mi stanno addormentando, se mi stanno addormentando, ma le sento poco e niente, si mi addormentano dalle ginocchia in giù, per carità. Non ne parliamo in inverno, perché ho sempre i piedi gelati e mi fanno anche male, magari in estate a tempo caldo è di meno il dolore, però questo fatto della circolazione mi sta rovinando le gambe, capito? Passiglie qua, iniezioni, queste, questa, non fanno niente, ti passa per un momento dopo ritornano, ma è all'età nostra quella la faccenda, purtroppo. Raccontiamo e tiriamo avanti, salutamela comunque. Purtroppo è vero, anche io ho le gambe, tuia, cioè la gamba, io ho la gamba destra che non mi arriva sangue, ed è un macello, appena cammino piano piano, ma poco poco, subito mi fa male, ma un dolore allucinante. Un macello, più si va peggio si diventa, forse anche l'età, io sono in 85, per cui cominciano a pesare in realtà. Sì, ma io ne ho 65, ne devo fare, non è che sono così anziano, no? Però purtroppo sono messo male, e cosa vogliamo fare? Un macello veramente, per casa, ma ecco, purtroppo la vita è così. Sono i perfetti e sono meno perfetti, per cui adesso tutti i difetti escono fuori, hanno una certa età. E così via. Già tiriamo avanti piano piano. Vai Marco. Le ho dato i saluti Gio Marì, ha detto ricambiati di cuore. Dice meno male si ricordano di me ancora. Se fosse stata in piedi sarebbe venuta a salutare, ma si è appena coricata che era in bagno. E quindi ritenetevi super salutati da lì. Piacere, ricambiate tutto, vai, fa piacere, va. Non importa se non ha potuto venire a salutarci. Va bene così, Marco, vai, portate che sia bene, quello è la cosa più importante. Sentiamo Marlo, vai. Ciao, ci sentiamo, vai da te. Grazie per i saluti, ricambia Marco. Alla signora lì. Anziani stiamo diventando, Marcuri. Sì, vabbè, io ancora sono a metà strada, però vediamo se riesco a diventare anziano, perché con tutti i casini che succedono qua, adesso se ne sono inventato un'altra, il vaiolo delle scimmie, adesso ci sarà un'epidemia di quello, speriamo di no. Sembra che non mi sembri vero a questi dei vaccini eccetera eccetera. Va bene, dai, io stacco che metto il tè nelle tazze. A dopo, vai Gio Marì. Ok, d'accordo Marco, ci stiamo, vai. Ok, ciao. E così è andata purtroppo, per carità. Ma raddoppiamo, tiriamo avanti piano piano, dai, cosa ci vuoi fare? Questo è fatto questo vaccino è un macello, adesso mi sembra che dobbiamo fare la quarta, cazzo, adesso ci vuole la quarta. Io tutti gli anni facevo il vaccino antinfluenzale, però ogni volta che facevo l'antinfluenzale mi sentivo sempre male, ma male però E poi sono rimasto parecchi anni che non le facevo e stavo bene. Quest'anno l'ho rifatta, mi sono sentito male, ma e ancora c'è un po' di tosse, un pochettino ce l'ho ancora. Non ne torno a fare più di quella roba, non ne faccio più. L'altro vaccino sì, ma quella lì non la faccio più antinfluenzale perché mi fa male. Tutte le volte faccio quel vaccino mi fa male. Sono male, ecco. Un mesetto e più sono male. Chissà che faccio, dai. A me pure non mi va venuta, come che mi bonghia niente, il vaccino, me l'ha fatta apposta la dottoressa, ma ho fatto prima i tre vaccini, quelli per il Covid, e poi mi ha fatto anche quello antinfluenzale. Io non lo faccio più, perché adesso la cosa che tutte le volte che faccio con l'antinfluenzale sto male, mi sento non tanto bene, capito? Per cui preferisco non farne più come ho fatto l'altra volta e basta. Gli altri sì, adesso vedo un po' se ce la fare la quarta, faccio la quarta, quella già se ce la fare la faccio ben volentieri, capito? Ma non lo so se ne faccio io ne ho fatto tre, penso che bacchiani. Dovrebbe bastare, però mi sembra che per completarla mi sembra che ci sia la quarta, adesso vedo un po'. Me lo dirà la dottoressa nostra se ce la fare oppure no, vediamo un po'. A pensare quando ho fatto la prima con la febbre, sono stato un paio di giorni con la febbre, fatto la seconda, sono stato altri due giorni fermo, la terza la stessa cosa, con la febbre due o tre giorni, poi mi è passato. Se faccio la quarta vuol dire che l'importanza è che faccia bene, dai, quella è la cosa più importante, magari un paio di giorni non è che ci si fa stare bene, però se ce la fa la deve anche farla, a vedere un po' che punta arriviamo, dai. È vero, no, a me non mi ha fatto nulla, nessun vaccino non mi ha fatto niente. Nella prima, nella seconda e nella terza, poi ho fatto anche quella antinfluenzale, però chissà, è un mente che non è volta, che non attichi. Io ripeto, non ritorno a fare l'antinfluenzale, per nessuno, no, assolutamente, ma faccio star male, cazzo, è un macello. Lui dice che c'era lo stesso l'influenza, però magari più leggera. Beh, mi ha fatto la tosse, mi fa venire la tosse. Si mi attacco questo prurito alla gola, mi fa venire la tosse. E poi al caldo e peggio ancora. Ma se ti fa di mare, non ne va di antinfluenzare, Gio Mari. Ha fatto i mari. Vabbè, se uno fa male, infatti, no. Io non le faccio più, assolutamente. E non mi butti più, no. Quest'anno mi hanno convinto e falle, e l'ho rifatta, ecco, e mi è tornato di nuovo. La tosse mi fa venire, tutto lì. Non altre cose, ma nemmeno febbre, però la tosse, ecco. Fa vedere questo prurito alla gola e per cui ogni tanto, e poi quando mi corre che peggio ancora, capito? Figurati. No, a me la verità non mi hanno fatto niente, però cata tutti i vaccini, mamma mia, chissà cosa ti sto punendo di Trento. Che ne sa, per carità, ma brutta mi sono punendo, a me sono brutta, vai te caduca, però bisogna prevedere le cose, dai. Avere un po' se è una cosa che può far bene bisogna farlo per la salute, capito? Per cui vabbè, dai, chiedo che mi devo rinfrescare, mi sono stato poche momenti fa e per cui sento magari dopo se ci sei già accendo, vai. Cappa, buon proseguo allora, dai Gio Mari. Io me ne sono alzato presto, ho fatto colazione, tutte cose, sono andato lì a prendermi la macchina, a chi si misevi, come ti vozzo, che sono dovuto andare piano piano e l'anca mi va via mari, purtroppo. Vabbè, dai, buon proseguo, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, Gio Mari, dai. Sì, ok, ciao. sì. Stata lì, tu sì. Natali, tu sei? Tu sei al mare, siete andati, c'era abbronzato le chiappe chiare. Natalino col cuore. C'è qualcuno per Radio 10, cambio. Amore, ci dà sotto a buone. Come? Attenzione, 10, c'è qualcuno in ascolto. Sul 10? Natali non si è assentato un po', è in cucina. Io concedo, vabbè, dai, già lo sento dopo, allora non ti preoccupare, lascialo fare, ok? Ciao. Ciao, ok. Ma perché dove c'è l'aria? Zitta! C'è qualcuno qua? CQ 10, c'è qualcuno qua? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno qua? Chi è avanti? Avanti sul canale 10, chi vuole entrare? CQ 10. Hola, CQ, c'è qualcuno qua? CQ 10, c'è qualcuno qua? Hola, CQ 10. Hola, CQ, c'è qualcuno qua? Sul 10. Vabbè, c'è qualcuno qua? Ah, spittina, bobo!